Pericolosamente bella, come un grande albero in fiore, come un bianco narciso piccolo ed esile. Come un diamante, soffice come un raggio di luna, calda come il sole, fredda come il gelo delle stelle. Distante come un monte di neve, più allegra di una ragazza che in primavera intreccia fiori tra i capelli, tra i capelli. Dura come un diamante, soffice come un raggio di luna, calda come il sole, fredda come il gelo delle stelle. Dura come un diamante, soffice come un raggio di luna, calda come il sole, fredda come il gelo delle stelle. Sono tutte sciocchezze che non rendono bene.